Siamo in missione per conto di Dio. "24 mattino" di Luca Telese. Reach out, touch faith. Ho visto che si girava e poi ho visto questa palla entrare nell'angolo del destro della porta e sono rimasto basito, sono rimasto incantato, sono rimasto così. Incredibile è questo derby delle milanesi fra il culo e la iella, no? Non trovi? Il culo, ammesso che il culo esista nel calcio, no. Perché non è ancora, certo. Non è ancora stato stabilito scientificamente se esista o no. Speriamo in fretta in un Piemonte libero. Ah, stiamo impazzendo! Piemonte libero, Tirolo libero, Lombardia libera, Molise libero. Molise libero, la parodia di oggi. Svolgono un servizio pubblico. Ma cioè, sei falso già nelle premesse. Perché l'hai detta così? Perché la metti male fin dall'inizio. Infatti la metto male fin dall'inizio, sì. Sì. Io resto convinto che la rete e il cellulare siano il più grande rincoglionimento di massa della storia dell'umanità. Vorrei semplicemente che in Italia si facesse una scelta. Questa terra di Sicilia, che come sapete è l'esagerazione dell'Italia, la Sicilia nel bene e nel male è tutto quello che c'è nella penisola. Quello che al nord è brutto, in Sicilia è bruttissimo. Quello che al nord è bello, in Sicilia è bellissimo. Ah, una bella definizione. La Sicilia come l'esagerazione dell'Italia. Non faccio l'urletto. Rido perché ha perso lucidità. Ha perso lucidità, mi dispiace. Reach out and touch faith. Eccoci qui, popolo di Già Svegli, buongiorno, Radio 24, Luca Telese, un'altra giornata, un'altra dura giornata, una giornata illuminata dalla battaglia d'Europa in Germania che riguarda noi direttamente, perché se entrano i liberali in questa coalizione tedesca si stringeranno i cordoni della borsa per tutti. E questa mi sembra la conseguenza più importante che tocca a noi direttamente, come vedremo. Ma poi quel voto è importante e quindi ne discutiamo. È importante anche perché racconta qualcosa. Un ceto medio impoverito si è arrabbiato e ha votato verso destra. Questa è la prima cosa. Non sono poveri delle mense, non sono diseredati. È una borghesia che sognava, che voleva il benessere e che probabilmente ha sentito il bisogno di uno strappo forte. Vanno verso sinistra pochi, vanno verso destra in tanti. Fuggono dalle spede e ovviamente dal partito della Merkel. Allora, questo è, come dire, il senso di questa giornata. Qui a fianco a me c'è Alberto Castelvecchi che ci accompagnerà in questa prima parte di questa puntata di 24 Buongiorno. Mattino, ma ovviamente come ogni volta cominciamo dal fritto misto del giorno. Gli amici di Renzi, quello che ancora ieri alla festa dell'unità di Imola faceva il fenomeno insultando me e la Lega, mai presi così pochi voti, quindi evidentemente qualcosina il Matteuccio ha sbagliato, anche se vabbè, lui passa il tempo insultando la Lega, insultando Salvini, insultando gli italiani, insultando i nostri elettori, non penso che andrà molto lontano però. E questo ovviamente lo avete riconosciuto, era Salvini che fa ampie interviste oggi sul Corriere della Sera per dire che il voto tedesco è un grande segnale contro l'inciucio e a favore della Lega. Dobbiamo evitare che dei personaggi in cerca d'autore, lo dico veramente da italiano più che da militante del PD, si ritrovino al governo del paese senza avere nessuna predisposizione né preparazione per svolgere un ruolo del genere. E questo l'avete sentito, era Michele Emiliano collegato all'area che tira, parla della prospettiva della campagna elettorale riferendosi al Movimento 5 Stelle. Sono in questo momento impegnato a cambiare le cose in Di questo Maio. Paese insieme ecco. a tutto il Movimento 5 Stelle. Ecco il nostro obiettivo deve essere questo, il resto non mi interessa. In una politica che è tutta dettata l'agenda da Berlino, anche Di Maio parla della Germania e dice siamo noi l'argine a quell'estremismo. Di Pietro, colpo di scena, colpo di scena. ho cominciato a fare politica nell'Ulivo, di cui sono stato un cofondatore, resto nell'Ulivo e quindi non posso che restare con Bersani, a cui io ho detto e lui ha ribadito che entrambi lavoriamo per ricostruire un Ulivo unitario, ed io ho già detto a lui che certamente voterò MDP, ma non mi limiterò a votare MDP, ne porterò anche la bandiera. Ne porterò anche la bandiera. Come vedete, l'asse Roma-Berlino è un asse di elezioni subito. Si passa da quelle tedesche a quelle italiane senza soluzione di continuità e siamo già ai pronunciamenti e agli appelli. Ma poi c'è il grande scenario del mondo, dove arriviamo a una soglia che non era stata mai toccata in Corea. Corona, Trump non... 지난 주말에 또다시 우리 지도부에 대해 오래가지 못하게 할 것이라는 E pensate, questo è il ministro nordcoreano Ri Yong-ho, che dice nel suo discorso, il discorso che ha fatto tremare le cancellerie e le ambasciate, lo scorso weekend Trump ha sostenuto che la nostra leadership non durerà ancora a lungo e quindi alla fine ci ha dichiarato guerra. È una parola senza ritorno, l'annuncio che la Corea è pronta ad abbattere qualunque aereo americano sia in interessato dalla sua area, magari impegnato in qualche ricognizione anche fuori dai confini. Questa è una frase che dovremmo spiegare bene. Però chiedo subito la parola a Alberto Castelvecchi, perché da editore qualche anno fa, nella solitudine, nel disinteresse generale, pubblicò un libro che era pazzesco, orwelliano quasi, in cui si descriveva com'era quel regime, come funzionava, e quindi la Corea, che allora sembrava uno stato da macchietta, è diventato un grande pericolo. Eh sì, la Corea era e sembra tuttora uno stato da macchietta, con la differenza che fino a un po' di tempo fa gli zii, i nonni di Kim Jong-un, l'attuale sovrano della Corea del Nord, si limitavano a fare i cani al guinzaglio della Cina. Alla Cina faceva estremamente comodo avere questo cuscinetto tra se stessa e il sistema capitalistico della Corea del Sud. E qui sta succedendo qualcosa di diverso. Consiglio a tutti di leggersi un importante dossier di Guido Olimpio del Corriere della Sera, in cui parla della sorella di Kim, cioè la vera responsabile della macchina di propaganda terrificante di parole, ma non solo, anche di lanci missilistici e di immagini del sovrano con basetta nazi. È presente questi raduni che sembrano dei documentari di Leni Riefenstahl, sì, della Germania, sì, nazista. Con... Beh, si chiama Kim Yo-jung ed è l'unica sorella, peraltro, perché un'altra, cioè, gli altri li ha ammazzati tutti ed è quella che dosa le dichiarazioni una dopo l'altra, che sono appunto apocalittiche. Una è la Corea gli Stati Uniti d'America tenuti in pugno dalla Corea del Nord. E in effetti questo è vero: un piccolo stato, un medio stato con un sistema di apparato di difesa importante, può tenere in pugno non solo gli Stati il Uniti, quarto, ma esercito del mondo. Il quarto esercito del mondo, perché tutto in quel paese, che non è un paese povero come risorse, tutto è veicolato per l'industria bellica. Per l'industria bellica, in questo togliendo confronto. L'arsenale, come dire, nucleare, che preoccupa tutti, c'è, cioè, la famosa frontiera di cannoni, per cui basterebbe una salva di quelle armi per cannoneggiare totalmente Seul e la Corea del Sud. Viene conteggiato in 12.000 missili, 12.000, cioè ordigni, l'arsenale di Kim, che sono a 30 km dal confine. E poi c'è un altro problema, che si tratta spesso di postazioni mobili, cioè gli Stati Uniti non se la caverebbero con un bombardamento di postazioni missilistiche, perché Kim li sposta continuamente, oppure sono nascosti sotto le montagne, per cui va lì a trovare. E quindi siamo tornati a quel problema del primo colpo, che era il problema decisivo della guerra fredda, era calcolo delle probabilità, chi colpisce per primo ha un vantaggio competitivo. E questa dichiarazione di guerra, che ci deve in qualche modo preoccupare, contiene proprio questo messaggio: sì, noi siamo pronti a colpire, sì, è il nano che vuole colpire il gigante. Perché se tu vedi, si è spostato completamente. Prima noi parlavamo in Occidente, spesso con questo moralismo un po' d'accatto, di bombardamenti chirurgici, parlavamo della necessità di non fare vittime civili quando cade un missile intelligente. Ti ricordi la retorica dei missili intelligenti, come missili, no, di Tomahawk, che devono colpire chirurgicamente? Se si spostano 100 metri più in là, immediatamente la potenza statunitense chiedeva scusa per aver sbagliato mira. Oggi si parla di scenari di distruzione, la madre di tutte le bombe, la difesa americana che dice abbiamo un arsenale immenso da mettere a disposizione del presidente, e Kim che parla di distruzione totale. Cioè siamo tornati ad una retorica di guerra che è molto pericolosa, in cui il conto dei morti è nell'ordine dei milioni, e qui questo non avveniva dai tempi della guerra fredda. È vero. Allora, mentre David Bowie canta per noi, 349-238-6666 per i vostri messaggi, e ti interrogo sul secondo tema importante, la tua analisi proprio lampo sulla vittoria della destra radicale in Germania, sulla crisi della Merkel che però dovrà continuare a governare, e su questa strana coalizione giamaica che tiene insieme un pezzetto di destra liberale e un pezzetto di sinistra verde, ma unita su una cosa: rigore dei conti e chiudere i rubinetti a Draghi. E infatti Draghi è il nome chiave, nel senso che fino a un po' di tempo fa, fino a qualche settimana fa, San Mario Draghi, come lo chiamo io, era l'architetto del quantitative easing, cioè la possibilità di tenere insieme il sistema dell'euro comprando il debito di tutti i paesi anche più deboli. Ma oggi il ministro delle finanze Schäuble e Jens Weidmann, che è il capo della Bundesbank, saranno molto meno docili verso Frau Angela. Quindi una Angela Merkel con un guinzaglio più corto da parte dei suoi banchieri vuol dire una Germania più nervosa, e quindi una Germania che non perdonerà facilmente i nostri disavanzi di bilancio. Quindi il messaggio è in questo momento a Gentiloni, ma per chiunque in futuro voglia governare l'Italia. Il tema del giorno ne parleremo fra poco, e sicuramente lo scandalo incredibile, uno scandalo tutto italiano, nell'università dei parenti che assumono i parenti, oppure dei parenti dell'università A che devono assumere i parenti del rettore dell'università B per fare uno scambio e non incorrere nei limiti della legge. Ecco, lo scandalo dei professori che disegnavano con la cupola le nomine, i concorsi, le piccole cattedre, è veramente un brutto segnale. Ma questo, diciamo, è l'antico sistema del baronato, solo che un tempo i baroni, vedi, l'università, Luca, è uguale a se stessa dai tempi dell'Alma Mater di Bologna, dai primi del 200, cioè l'università si è sempre basata su un sistema di cooptazione. Solo che spesso gli antichi baroni ne mettevano in cattedra tre bravi e uno zeppa, cioè sostanzialmente era un allievo che è stato tanto fedele, mi ha portato la borsa, mi ha fatto le ricerchine, quindi metto in cattedra anche lui. Oggi si sta moltiplicando, come dimostrano le intercettazioni telefoniche, la necessità di farli fuori quelli bravi. Io, vedi, io sono un prof universitario. Infatti, no, ricordiamolo a chi non lo sa perché sembra un film, tutta questa storia comincia con una registrazione, un'autointercettazione di un ricercatore sacrosanto, benemerito, che è andato col registratore e ha fatto parlare il suo barone, che gli ha detto: ma tu ti devi ritirare perché sei troppo bravo. Sei troppo bravo, metti in difficoltà il raccomandato. Ma vi rendete conto che paese che è? Guarda, io ho un fratello che insegna a Cambridge, Stefano Castelvecchi. Quando fu assunto da Cambridge, lui è un musicologo, va dal direttore del personale e dice: vorrei mandare un biglietto di ringraziamento ai commissari che mi hanno assunto. Il direttore del personale diventa livido in volto e gli dice: lei non si permetta neanche di dire una cosa di questo genere, perché lei è stato assunto da Cambridge e questo dovrebbe bastare. Meraviglioso. Non le basta Cambridge? Ecco, se io penso a mio fratello che viene assunto a Cambridge su questa base, e al fatto che nei giorni in cui veniva assunto a Cambridge lo chiama un tizio dicendo: ci sta un concorso per professore a Macerata, se vuoi ti presento, facciamo il cartello, eccetera eccetera. Questo ci dice un po', in fondo ha doppia cittadinanza anche inglese, se non sbaglio, il ricercatore che ha denunciato. Sì. E in una delle intercettazioni è uno straniero, il barone di turno gli fa: non fare l'inglese, qua siamo in Italia. Io lo trovo una frase geniale, cioè non fa troppo l'inglese, qui i criteri sono altri, non qui passa, si deve fare così. E sapete che un esercito, 54.977 docenti in Italia, 22.052 ricercatori, e come dire, è una platea di consensi importanti. Assolutamente. È una cinghia di trasmissione del consenso italiano. E nonostante questo noi non possiamo inceppare il sistema universitario, perché l'Italia, nonostante tutto, laurea, rispetto al suo fabbisogno, meno persone di quello che serve. Abbiamo messo il numero chiuso a medicina? Fra 10 anni, ci dicono le statistiche, avremo 10.000 medici in meno, e il sistema nazionale dovrà prenderli da dove? Dalla Romania, dalla Spagna, da Cuba, cioè tutti i posti del mondo in cui ci sono dottori bravi dovranno fare fronte al nostro deficit. Cioè c'è bisogno di un'università di massa? o un po' più di massa di quella attuale, sì, ma il criterio non può essere quello di far passare le zappe al posto di quelli bravi. L'ultimo lampo sui titoli di oggi è questo colpo di scena di Di Pietro che ritorna in politica. Di fatto era uscito fuori, aveva abbandonato, aveva avuto degli incarichi, diceva che si dedicava al trattore, alla campagna. Le foto con l'asinello, le foto con la vigna, vengo con le calosce, con le calosce ai piedi, meraviglioso. Vado con Bersani e porto anche la bandiera. Secondo te Di Pietro porta con Sensi, li toglie? È un grande personaggio italiano? È un... che cos'è? Ma dunque, Di Pietro è un grande personaggio italiano, è uno dei pochi che giocano un'identità folk, appunto, folk in senso, no? La manona pelosa, la gesticolazione non televisiva. Il Di Pietrese. C'è il Di Pietrese, c'è una gesticolazione d'austeria, se ci pensi, no? Perché ha queste manone che si muovono. È un personaggio che ha segnato la nostra storia, e questo lo sappiamo. E oggi, in qualche modo, ha un suo bacino di consenso. Ed era vicino ai 5 Stelle, pure questo colpisce. Beh, no? Perché comunque Di Pietro è un personaggio nazional pop e nazional populista. Questa sua virata a sinistra deriva dal fatto che probabilmente lui non è esattamente di sinistra come cromosomi. Per niente. Però c'è da chiedersi chi lo sia oggi in Italia. Probabilmente sa che in un'Italia che si va avvicinando a criteri sempre più proporzionalistici, la sua fettina di consenso se la può portare con migliore dote in seno a un ulivo da lui riformato, non si sa come, o da Bersani riformato, ma non si sa come. Ha nominato l'ulivo, ti rendi conto questo senso vintage della... retorica l'ulivo di vinto. L'ulivo, chi se lo aspettava l'ulivo? Pensa, nel giorno in cui il nipote di Prodi lascia la sua parrocchia perché lui vuole ospitare i rifugiati e i suoi parrocchiani sono arrabbiati. Un grande segno ai tempi, ma noi ci dobbiamo fermare. Strade in diretta e torniamo subito dopo a parlare dei due Dioscuri, due leader del Movimento 5 Stelle, di Dibba e Gigino Di Maio. Mattino. I già svegli. Innanzitutto complimenti, siete eroici, già svegli tutte le mattine, veramente. Salve, volevo parlare del discorso delle pensioni. Sono sempre io, salve. Io quando comincio a lavorare, dopo Antonani, no scusi, nel 74, che sto dicendo, salve, piace, sono sempre io, da Firenze. E dunque, parlando di mio nonno, 1892-1961, salve, sono sempre io da Firenze, comunque, salute, salve, buon lavoro, arrivederci. Sono già sveglio per dare ai miei clienti una buona tazza di caffè, una brioche, un po' di burro e marmellata e per rendere il loro mattino un po' più gradevole prima che loro vanno a lavorare. Ma io purtroppo comincio prima di loro. Buongiorno, buongiorno, mi chiamo Mariangela e sono sveglia perché quando ho dormito 5 ore a me basta, no, e dopo vado avanti a leggere e ascoltare i giornali radio la mattina presto. Che cosa meravigliosa, Mariangela, l'Italia civile è questa, si sveglia presto, legge, studia, riflette, il paese si regge su queste persone, ma anche, io vorrei sapere dov'è, su quel burro e marmellata preparati da uno che si sveglia prima per te. Questo è il grande regalo, questo è il grande servizio, e quindi raccontate la vostra Italia ai già svegli allo 0246524492. Però, dicevo, entriamo dentro la grande saga, dentro la saga di Di Maio e di Dibba. Di Maio si presenta bene, un po' come Charlie Brown, ma lui come attività professionale vanta questo: svolgo, ecco questo è il suo curriculum, la professione libera di webmaster, che è una formula elegante per dire lo sfaccendato, fa niente. Però ci tiene ad informarci che in realtà ha fatto altre esperienze lavorative, fra cui steward presso la Tribuna Autorità dello Stadio San Paolo di Napoli, assistente regista, tecnico riparatore dei computer, agente commerciale, manovale presso un'impresa edilizia. Tutta questa roba in 28 anni di vita. E io ovviamente non sono d'accordo con De Luca, perché questo è il curriculum dei giovani medi che lavorano in Italia, che possono fare lo steward nella tribuna del Napoli, che possono fare il manovale presso un'impresa edilizia, perché la precarietà è questo luogo. Avessero preso il mio curriculum e quello di altri 100 che oggi hanno meno di 50 anni, a 28 anni sarebbe stata stampavo magliette e studiavo all'università. Ma no, invece il tuo curriculum a quell'età cruciale in cui, come dice io, bello, a 28 anni, a 28 anni avevo già scritto una grammatica che attualmente è la Garzantina, cioè la più autorevole grammatica, vabbè, col mio capo Luca Seriani. Allora ci e curiosamente il mio primo mestiere è stato proprio dietro un microfono a Radio 3 a occuparmi di una cosa noiosissima, vabbè, basta, i libri. Mi occupavo di cultura. Un fan prodigio. Al telefono l'inviato di Repubblica Berlino, Roberto Brunelli, buongiorno. Buongiorno Roberto, sentiamo l'audio, ci sei? Sei vivo? Pronto, pronto? Recuperiamolo, facci risentire quel bellissimo, ecco. E ora recuperiamo Brunelli. No, perché la cosa interessante è questa storia dei flussi. Brunelli su Repubblica ha scritto, si è occupato proprio di questo strano smottamento per cui un pezzo grosso di SPD è andato direttamente a votare AfD, cioè a votare l'Alleanza per la Germania, come sappiamo una formazione estrema, radicale, di destra, no? E non è strano nel mondo, perché abbiamo visto persone che hanno votato Bernie Sanders, che sono andati a votare per Trump contro Hillary Clinton, avevamo visto persone che avevano votato per il Labour, che avevano votato contro, a favore della Brexit, però è la prima volta che accade in Germania. E questo è un fenomeno che è stato analizzato in Francia quando è stato eletto Macron per fare sbarramento contro il Front National di Marine Le Pen. Si chiama l'elettore castoro. L'elettore castoro, castoro. È stato questo termine francese, la castorizzazione, cioè la castorizzazione della politica. Cos'è il castoro? È uno che pur di non far vincere l'altro, oppur di danneggiare il deluso, fa una barriera per non far. Quindi il tema è che io non voto a favore di questo, ma per esempio oggi la castorizzazione è contro il 5 Stelle. Tu vedrai che si formeranno le coalizioni più improbabili purché il 5 Stelle non vada al governo. Quindi il mio è un potere di interdizione. Quindi l'elettore castoro fa le barriere, l'elettore tedesco ha fatto la barriera contro la grossa coalizione. Non solo, ma gli elettori della AfD hanno fatto barriera contro la politica rassicurante di Angela Merkel sull'immigrazione. E tra l'altro l'elettore castoro se ne frega dell'economia, nel senso che in Germania tu hai un'economia che grosso modo va bene, c'è occupazione piena, c'è una bilancia dei pagamenti in avanzo positivo, c'è un modello di automotive, cioè di fabbrica delle automobili, che si sta riconvertendo all'elettrico. Cioè la Germania è forse il paese più promettente al mondo, nonostante questo c'è rabbia, c'è instabilità. Quindi i soldi non bastano, caro Luca, e il castoro tira fuori le zanne. E questa la cosa interessante, la troveremo dopo, ma secondo me è da discutere subito, è uscita fuori la rabbia verso i mini jobs. È un pezzo per esempio di Mario Giordano sulla Verità, ma si trova anche in altri articoli, lì lui ha centrato proprio questo. Erano i lavoretti che dicevano erano la radice del miracolo. Certamente. Tedesco si difende l'occupazione dando il lavoretto da 200 euro, sì, però poi che... quando vai a votare sono incazzati perché io mi vendo al mondo come anche giusto modello di occupazione ma piena. Si diceva che aveva tenuto consenso, eh? Beh, in qualche modo è il consenso dei mille euristi di una volta, ti ricordi? Quelli che dicevano, sì, riesco a fare 1.000 euro la al mese facendo tre euro. Mestieri insieme, sì. Generazione 1.000 euro. E questa è più o meno una generazione 1.000 euro che ha capito però che la Germania delle garanzie e dello Stato sociale è morta e quindi reclama con rabbia qualche cosa. Oppure di più. Oppure è stata contenta di poter fare il mini job, però vuole di più. Vuole di più e non vuole poi essere in concorrenza sul mini job con l'immigrato, con il siriano, con la spesa, con eccetera eccetera. Allora Roberto Brunelli è lì a Berlino per Repubblica. Buongiorno Roberto, scusa per questa svegliataccia. Buongiorno a tutti. Questa levataccia che ti costringiamo. Allora stavamo parlando di quel flusso che ti ha colpito ieri di voti da sinistra verso destra. Chi sono gli arrabbiati? Si dice non sono poveri, sono scontenti del sistema tedesco, quelli che hanno votato la destra per vendicarsi della loro insoddisfazione? Sì, dunque, ovviamente è una cosa molto, come dire, sparpagliata, perché c'è un problema in realtà di, chiamiamola non di povertà, ma certamente una differenza economica non indifferente che soprattutto colpisce, diciamo, i lender dell'est. Sì. E che ha pesato primo partito nei lender dell'est, no? Primo partito all'est e secondo partito in Sassonia, 27, in Sassonia 27%. E ovviamente prevale diciamo così il voto di protesta anche in certe zone, per esempio la paura dei migranti è stato un elemento cruciale, no? Però anche in luoghi dove i migranti non ce ne sono, ci sono alcune località dell'est dove praticamente non ci sono stranieri in giro, ci sono paesi paradossali, ci sono 10 stranieri e 13.000 abitanti, in cui però la FT ha preso voti in quantità industriale, qualcosa come il 30% dei voti. Allora si tratta di capire in profondità queste elezioni. È vero che molti disoccupati, lavoratori, impiegati, molti del ceto, diciamo, medio-basso hanno votato AFD, però non solo, il voto arriva in parte anche da persone, diciamo, sì, sì, di ceto medio, proprio il classico ceto medio, arrabbiato. Ceto medio arrabbiato, si potrebbe dire. Questi, diciamo, 1 milione di voti circa sono andati alla CDU, cioè li ha presi, scusate, dalla CDU, ma se li ha presi dalla CDU. E quanti dalle SPD? 500.000. Invece sono arrivati dalla SPD, ma molti anche dalla Linke, dal partito della sinistra, la Linke, circa 400.000. Bene, ci stai dando dei numeri, i numeri pesano sempre molto, è un'analisi, ma è un'analisi che conterà anche sul racconto di quello che accade in Italia. Noi ci fermiamo per il giornale radio e le strade e poi torniamo qui con Alberto Castelvecchia fra poco. Ciao papà, sei obeso.